La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati, buon sabato sera al cinema, possibilmente da Franco D'Assisi. Questa è La Rosa Purpurea, la nostra ora di cinema settimanale per parlare di tutti i film, di tutte le novità in sala in questo weekend e anche molto molto di più. Ospiti, sarà con noi Giorgio Pasotti fra poco per parlare del suo film Io Arlecchino, giochi con il nostro DVD Game, tutto il meglio del cinema da vedere in TV. Cominciamo subito perché i film sono tanti, anche se meno della scorsa settimana, ma comunque sono ben 9 le pellicole che arrivano in sala in questo weekend. Noi cominciamo con belle tinte forti, anzi direi tinte gialle, con Wolf Creek 2. Che cavolo ci fai da queste parti, mocciosetto? Che ti è successo? Ti hanno investita. Ah, mi chiamo Mick Taylor, uccido maiali e sono una leggenda dell'Outback. C'è un giochino che io e te potremmo fare. È una specie di quiz. Ti faccio 10 domande, se mi dai 5 risposte esatte, ti lascio andare. Per ogni risposta che sbagli, io ti prendo un dito e te lo taglio. Boris Sollazzo in collegamento con noi, ciao Boris. Buongiorno a tutti. Ricordi quella massima, mai lasciare la strada nuova per quella non nuova, insomma, certa per l'incerta, conosciuta per cioè, tutto, insomma, la massima era quella lì, te la ricordi, vero che te la ricordi? Ma la ricordo benissimo. Tu sei un esperto nel lasciare la strada conosciuta per quella sconosciuta. Esattamente, ecco. Esattamente, io sono la perfetta vittima di un film horror. Assolutamente. Nel momento in cui trovo una pompa di benzina che magari è un po' fatica, io entro subito, cerco anche di comprare un Arber Magic in modo che posso essere ammazzato con il macete dal primo inserviente che incontro. Ecco, più o meno quello che fanno, esatto, più o meno quello che fanno i protagonisti di questo Wolf Creek 2, perché appunto Katarina e Rutger, desiderosi di conoscere la vera Australia, si inoltrano nelle strade del Wolf Creek National Park, dove non dovrebbero andare, ma il bello dei film di questo genere è proprio che tu lo sai che non dovrebbero, ma tutti lo fanno. E quindi noi, se no, non ci troveremo nei film né un po' di morti e feriti, dita mozzate, eccetera. Siamo tra l'altro nell'Outback australiano, che è un luogo che di suo, no, vedi anche Picnic e Hanging Rock, porta con sé un alone di mistero e sembra terreno preferito, terreno ideale per i serial killer. Sì, c'è da dire che appunto questo tipo di film di genere sono un inno al darwinismo. Sostanzialmente tu parteggi per l'assassino perché le vittime se lo meritano. Detto questo, Wolf Creek 2 secondo me è un oggetto molto strano, molto particolare e anche molto interessante, anche se non del tutto compiuto e non del tutto, come dire, realmente riuscito. Questo perché? Perché McLean è un citazionista folle, un regista cinefilo che ha in sé anche la padronanza e la consapevolezza per poter mettersi a confronto con grandi registi, da Hitchcock allo Spielberg di Duel, perché per 20 minuti noi entriamo sostanzialmente in Duel, in un inseguimento molto particolare. E poi appunto forse c'è anche la volontà di rovesciare l'icona Picnic at Hanging Rock, che viene ricordata in ogni momento dal paesaggio, ma il paesaggio viene utilizzato in maniera esattamente opposta rispetto a quel film. Qual è il punto? È tutto molto interessante, è tutto molto bello, è tutto un gioco affascinante per noi che amiamo il cinema, per noi che in qualche modo ci campiamo e che quindi regolarmente vediamo film, però secondo me a un certo punto ci si dimentica del pubblico, dello spettatore, che a cui viene data un puzzle, un film puzzle in cui ci sono tante belle idee tutte insieme, tutte messe una presso all'altra, ma che non trovano forse un'unione reale. La cosa però più interessante sicuramente del film è questo protagonista, questo maialaro, che adesso non vorrei farmi insultare dall'ambasciata australiana, in qualche modo racconta tutte le contraddizioni, no, di un paese molto particolare come l'Australia, molto particolare fin dalla sua conformazione geografica, no? Come dici tu, il paesaggio di questo tipo è molto diverso da quello che si può trovare nelle coste, e quell'insieme di rivalse sociali, rivalse antropologiche, anche di frustrazioni derivanti dall'imperialismo altrui, si trovano tutte in questo personaggio. Quindi diventa Wolf Creek 2 forse il film che non voleva essere, un film quasi politico. È interessante da vedere, io ve lo consiglio da vedere. Non aspettatevi che vi piaccia come un film normale, però è un oggetto che secondo me non potete ignorare. E allora non ignoriamo Wolf Creek 2, tra l'altro presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2013, finalmente arrivato 2 anni dopo alla Via della Sala. Sentiamo come vanno invece le cose sulle strade più sicure, quelle principali, diciamo così, del nostro paese. Fra poco torniamo insieme, sarà con noi Giorgio Pasotti per raccontarci Io Arlecchino. Ci sono notti che ti fanno diventare grande. Noi rimaniamo per sempre come siamo a 18 anni. Ci sono notti che non si possono dimenticare. Lo ricordo piacevole perché l'ho proprio affrontato in maniera un po' scanzonata quell'esame. Ci sono notti tutte da vivere e da rivivere. Non è che l'ho detto io che gli esami non finiscono mai. Questo lo dico anche ai ragazzi che domani inizieranno questi esami. Ragazzi, quella è una delle frasi più vere che troverete in tutta la vostra vita. Ci sono notti come la notte prima degli esami. Sono Federico Taddia e vi aspetto martedì 16 giugno dalle 21 alle 24 in diretta per trascorrere insieme le ultime trepidanti ore prima dell'esame. Voci e ricordi di chi ha già affrontato la maturità, paure ed emozioni di chi sta studiando, i consigli degli esperti e l'imbocca al lupo dai personaggi più amati dai ragazzi. La notte prima degli esami, una notte di tutti. Raccontaci la tua al numero verde 800 24 00 24 e sul sito radio24.it. In collaborazione con studenti.it. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qui, La Rosa Purpurea è la seconda parte del nostro programma. Come annunciato poco fa, abbiamo in collegamento un ospite gradito, perché c'è un film italiano di cui vogliamo parlare che esce questo fine settimana, è uscito proprio in questi giorni. Stiamo parlando di Io Arlecchino. Il nostro ospite è il regista e l'interprete di questo film, Giorgio Pasotti. Ciao Giorgio, ben trovato alla Rosa Purpurea. Ciao, ciao a tutti, ciao. Allora Giorgio, io direi facciamo ambientare subito i nostri ascoltatori con una clip dal tuo film, poi ne parliamo insieme. Applausi. Mi aspetto. C'è un messaggio che riguarda tuo papà. Papà, non puoi stare qui da solo. Che cosa conti di fare? Voglio continuare a fare quello che ho sempre fatto. Faccio umilissima reverenza a tutti gli orsioni. Immagino che fare il presentatore sia molto impegnativo. Beh, anche fare il vostro spettacolo lo è, no? Quanto era bella tua madre. Tu te la ricordi, Paolo? Io pensavo che questo fosse importante per te. È lo show che hai sempre desiderato. Vada la felicità. Paolo è un esponente del rutilante mondo dello show business televisivo, è un conduttore di talk show molto apprezzato, magari anche un filino viziato. Un giorno riceve una telefonata, l'avete sentita, suo padre non sta benissimo e torna nel natio villaggio medievale in provincia di Bergamo. Il padre, che ha le sembianze di Roberto Erlizka, è una persona molto forte, molto decisa, anche decisa a non far trasparire la preoccupazione, il dolore di una malattia. Lì incontra una compagnia di teatranti per caso, potremmo dire, che sta mettendo in scena uno spettacolo. È come se a quel punto si esplodesse dentro Paolo la divaricazione fra le radici, il senso di qualcosa di vero, di qualcosa di reale a cui attaccarsi, e l'evanescenza appunto del mondo dello spettacolo, fatto di tante occasioni delle quali ti rimane poco niente in mano. Il film giocherà, e non vogliamo dire ovviamente troppo, giocherà su questa dicotomia, su questo duello interiore, anche con imprevisti sviluppi. Spero di essere stato chiaro ed esaustivo, Giorgio, per quanto riguarda il racconto del tuo film. È una battaglia interiore di un uomo fra quello che siamo dentro e quello che ci fanno essere fuori. Ma guarda, sei stato non esaustivo, di più, sei stato talmente bravo che potremmo riattaccare qui. Buongiorno, buonasera, io. Hai fatto tutto, hai detto già tutto. No. Guarda, sei stato bravissimo. Allora, guarda, sì, è esattamente quello che hai detto tu. È un, come dire, una contrapposizione di non solo due mondi, ma di tante cose che stanno l'une agli estremi delle altre. Non ultima, proprio questi due mondi diversissimi, il mondo dell'intrattenimento oggi, che è il mondo della televisione, con tutti i suoi accessori connessi e il mondo della tradizione conservato in questo piccolo paesino della valle della Bergamasca, un paesino di quattro anime, un paesino un po' veramente incantato. L'idea era quella di dare un po' dei toni un po' favolistici, proprio perché questo paesino doveva fare innamorare le persone che lo vedessero. E così è stato, nel senso abbiamo cercato di dare dei toni anche fotografici molto caldi, molto caldi sostanzialmente, in modo da contrapporre invece a una fotografia molto più livida, molto più fredda, quella invece del mondo televisivo romano in questo caso, ma di qualsiasi altra città. Detto questo, è ovviamente un film che racconta il recupero della cultura, delle proprie radici. Prendo sempre a prestito questa frase che calza a pennello di Gustav Mahler, che sostiene appunto che la tradizione non sono delle ceneri da ammirare, ma semplicemente un fuoco che dobbiamo, come dire, passare di mano in mano e portarlo avanti e farlo conoscere alle generazioni che vengono dietro di noi. Quindi insomma è un film sull'identità, ma anche su molte altre cose, raccontato in una chiave veramente molto semplice, lineare, oserei dire onesta. Assolutamente una regia leggera la definirei, nel senso che vola abbastanza sulle cose senza perdersi in troppi fronzoli, semplice, magari essendo un'opera prima per te e anche insieme, ricordiamo, regia insieme a Matteo Bini, certo. Ma essendo appunto un'opera prima, magari anche con qualche ingenuità qua e là, però è un film a cui vuoi bene, perché è un film che ti riporta, intanto a mio modo di vedere, un film coraggioso, perché oggi è facile fare un film su dei canovacci e su dei binari ben instradati nei quali si fa fatica a deragliare. Più difficile, per esempio, mettere in gioco questa maschera della commedia dell'arte che è Arlecchino, addirittura già nel titolo. Il tuo Paolo è un uomo che vive con una maschera addosso, se la toglie, però Arlecchino diventa anche il mezzo con il quale trovare la propria emancipazione da questo mondo fatuo. Sì, è esattamente quello. Noi, insomma, voglio dire, molto spesso colleghi miei nell'affrontare un'opera prima cercano quasi di renderlo un esercizio di stile, no? Per uno cerca sempre di imporre uno stile, far capire quanto si è bravi. A noi non interessava questo, interessava semplicemente, ma lo dico con oggi la semplicità viene quasi un dispregiativo, invece no, secondo me la semplicità rimane un grandissimo valore, anzi attraverso le cose semplici, che è quello che noi abbiamo cercato di fare, un racconto semplice, però raccontare emozioni anche, come dire, che tutti noi viviamo, dal rapporto di un padre e di un figlio che si ricuce dopo tanti anni, al recupero di un certo romanticismo, anche questo un po' perduto, con grande semplicità. E questa secondo me è la chiave che noi abbiamo cercato di utilizzare, quindi venendo meno a effetti, movimenti di macchina che trovo alle volte un po' troppo fine a se stessi. Detto questo, il nostro protagonista è un protagonista che la cosa curiosa è che noi abbiamo cercato di contrapporre questi due mondi, ma dove oggi la vera commedia dell'arte viene interpretata da questi personaggi, cioè il produttore televisivo che incita il nostro protagonista a lasciar perdere queste cose della commedia dell'arte in questo paesino che lui ovviamente neanche comprende l'importanza, la profondità di ciò che fanno questo gruppo di persone quando recitano nella commedia dell'arte. Ebbene, questo produttore è lui stesso un commediante dell'arte, ma moderno, uno sopra le righe, uno che è veramente oltre, eccessivo nel modo di parlare, nel modo di gesticolare. Questa è un po' la commedia dell'arte, quello che fanno oggi. Lo stesso Paolo, quando conduce questi talk show dove la gente va a parlare dei fatti propri, e lui fa finta di interessarsene, di apprezzare, di commuoversi su queste storie, in realtà non gliene può fregare di meno, se non un qualcosa legato ai numeri, allo share, l'audience, i soldi, uno spettacolo in prima serata, eccetera, eccetera. Quindi insomma si è giocato su questo tipo di gioco di specchi, semplicissimo, antico come il mondo, ma che nel nostro film funziona. Ed è anzi il nostro Paolo che nel suo percorso ritroso nel, nel tempo, se vuoi, quando torna nel suo paesino, riscopre le proprie origini ed è per assurdo, calandosi una maschera, che scoprirà chi è lui veramente, perché scoprirà la sua vera identità, scoprirà il mondo in cui viene, scoprirà l'importanza delle radici. E certo, trovo che al di là del film sia veramente una cosa importante per chiunque di noi a un certo punto proprio della nostra vita. Ecco Giorgio, c'è a mio modo di vedere forse, ma te lo chiedo, un po' di autobiografia anche dentro, nel senso che intanto la location bergamasca è anche un omaggio alla tua città, ma ti senti un po' anche come Paolo in certi momenti, tu per esempio che hai fatto negli ultimi anni molta televisione, molta fiction, però questa fuga nel cinema alla regia, con un film magari piccolo però dove non cedi al mainstream, ecco, c'è un po' del movimento dell'anima di Paolo dentro questo tuo movimento? Guarda, non c'è un aspetto autobiografico legato anche alla stessa città di Bergamo, è tutto abbastanza figlio di un caso. Abbiamo scoperto che di Arlecchino non si era, per assurdo, mai stato fatto un film, una rappresentazione cinematografica. È stato rappresentato, insomma, innumerevoli volte negli anni a teatro, ma mai nella storia del cinema, appunto al cinema, scusami il gioco di parole. Detto questo, anche la stessa Bergamo abbiamo trovato proprio facilità nel girare lì, e quindi l'idea è cascata su Bergamo, oltre al fatto che è il paese natale dello stesso Arlecchino. Ma diciamo che lo spunto autobiografico nasce dall'idea, dall'importanza per me di tramandare le cose. Io sono figlio di un... Mio padre ha cercato negli anni di insegnarmi, mio padre è un musicista, ha cercato di insegnarmi la musica, la pittura, l'arte, la conoscenza della nostra cultura, né più né meno. E io trovo che questo sia fondamentale, cioè il tramandare di padre in figlio nozioni, cultura, tradizioni che sono non solo molto importanti, ma di cui noi tra l'altro siamo ricchissimi, ed è veramente un peccato mortale perderle, perché perdendo quelle si perde proprio la nostra identità. Giorgio, io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Ricordiamo Io Arlecchino nei cinema italiani, non tantissime copie, però insomma rappresentato in tutte le città più importanti, per cui chi vuole andarlo a vedere lo raggiunge facilmente. Assolutamente sì. Grazie ancora Giorgio Pasotti. Ma grazie a te, a presto, ciao, grazie, ciao. E allora, con Giorgio Pasotti e Arlecchino, noi andiamo a giocare con la prima traccia del film misterioso di oggi. I modi definiscono l'uomo. Beh, insomma, la massima è ficcante, però dovete indovinare da che film abbiamo tratta. E allora, se avete già riconosciuto il film, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo privato a larosapurpurea@radio24.it. Ci sono in palio un paio di Blu-ray di questo film che sveleremo la prossima settimana. Adesso linea alla regia, fra poco torniamo ancora insieme per parlare delle uscite in sala di questo weekend. Ci aspetta il probabile campione di incassi di questo fine settimana, Jurassic World. Ci sono notizie di cui nessuno parla mai. Ci sono notizie che restano sempre nell'ombra. Notizie che soffrono perché non godono mai delle luci della ribalta. Che fine avranno fatto? Avanzi di Manera, la rassegna stampa che non ti aspetti. Con Leonardo Manera e Daniele Ceva. Il sabato alle 14.30 su Radio 24. Lei, Daniele Ceva, ci sarà? Certo. E lei, Manera? Contro voglia. Pronto? Pronto, buongiorno. Qui è Radio 24, la radio del sole 24 ore. La conosce? No. Ah, bene. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, terza parte del nostro programma. È arrivato il momento di tuffarci nel giurassico con il nuovo capitolo, attesissimo capitolo della saga di Jurassic World, un film Jurassic Park che 20 anni fa ormai ha così sconvolto un pochino il mondo dei blockbuster legati a quel periodo, alla preistoria, la capacità di raccontarla con toni in certi momenti quasi horror. C'era la mano di Steven Spielberg, adesso c'è sempre però come produttore del film, la regia invece di Colin Trevorrow, E quello che succede è più o meno spiegato in questa clip. Sono molto fiera che facciate questo viaggio. Vi divertirete moltissimo. Oh, mi raccomando, se qualcosa vi insegue, scappate. Abbiamo imparato di più nell'ultimo decennio dalla genetica che in un secolo a dissotterrare ossa. Abbiamo il nostro primo ibrido geneticamente modificato. Avete deciso di creare un nuovo dinosauro? Non mi sembra una buona idea. Dobbiamo evacuare l'isola. Ucciderà tutto quello che si muove. Correte! E allora, correte. Bisogna correre anche l'altra volta, ricordate, no? Questo parco divertimenti in un'isola dove era stato di fatto ricreato il dinosauro, anzi i dinosauri. Le cose lì non erano andate benissimo, però, visto che la scienza aiuta, dopo una ventina d'anni Jurassic World è diventato un vero e proprio resort di lusso. Solo che la scienza ha fatto passi avanti anche per quanto riguarda, avete sentito, la ricreazione di dinosauri in provetta, ed eccoci di nuovo con il pericolo che incombe. Boris, verrebbe da dire niente di nuovo sul fronte giurassico, ma c'è un ma. A mio modo di vedere, la carta vincente di questo film è il taglio che è stato dato, cioè quello di non prendersi troppo sul serio e di provare proprio a fare dell'ironia la chiave di volta del racconto di questo film e anche dei legami con quelli precedenti. Assolutamente d'accordo. La forza di Trevorrow è trattare Jurassic Park non come una scomoda icona da cui non riuscirà a scrollarsi, ma sostanzialmente come un punto di partenza da trattare con grande affetto, perché Trevorrow è spielbergiano più di Spielberg, probabilmente nella scena finale in cui viene citato un altro grande film di Spielberg lo dimostra, insomma, è quasi un atto di devozione molto interessante. Da un'altra parte c'è l'ironia, che devo dire non mancava nemmeno a Spielberg. È vero che nel primo Jurassic Park c'era anche l'aspetto dell'effetto sorpresa, del fatto che noi ci saremmo ritrovati all'interno di un immaginario che non avremmo mai pensato di poter vedere con quella potenza visiva, e quindi lui si adagiava molto su quello. Trevorrow si trova esattamente nella situazione inversa. Ormai i dinosauri, come racconta Bryce Dallas Howard nel film, li abbiamo da 20 anni davanti agli occhi, anche se solo al cinema, non sono più una novità e la gente vuole essere stupita da altro. E Trevorrow capisce che la necessità sta nel tornare alla storia, nel raccontare qualcosa di estremamente efficace, di far divertire, di essere ironici, di usare anche gli stereotipi a proprio favore. Penso allo scienziato pazzo orientale o al militare che davvero sembra essere preso dal peggiore degli Avengers. E tutto questo viene messo insieme da una sensibilità molto particolare e da una coincidenza fortunata. Questo film doveva essere fatto 13 anni fa, ha avuto moltissimi problemi. L'anno scorso ha cambiato addirittura sceneggiatore e regista, e sono arrivati Trevorrow con il suo sceneggiatore di fiducia. Trevorrow, che aveva esordito con Safety Not Guaranteed, molto bello come film, ma anche molto lontano da Jurassic World, e che quindi era sostanzialmente un esordiente e non sapeva neanche se doveva fare un reboot o un sequel. Qual è il risultato? Che fanno sia un reboot che un sequel, e forse questa è la grande trovata, non so quanto voluta, ma la grande trovata del film, perché da una parte si ricrea l'immaginario dei dinosauri, dall'altra, come dicevi tu, non si escludono assolutamente gli altri tre capitoli, si citano in maniera divertita, sono sempre presenti, e quindi tu riacchiappi anche tutto quel pubblico che aveva amato quegli altri capitoli. Il pubblico di nostalgici, potremmo chiamare. Il pubblico di nostalgici, alla fine ne viene fuori, secondo me, un film di intrattenimento di 2 ore, molto sernato, molto divertente, e chiaramente che sfrutta tantissimo tutto ciò che negli ultimi 13 anni è migliorato nella tecnologia e che rende ancora più potenti questi animaloni, questi lucertoloni. Certo, assolutamente un 3D piuttosto imponente in questo caso, un film che ha rivitalizzato un francese che era stato dato per disperso, se vogliamo. Insomma, l'epoca di Jurassic sembrava finita, ci si chiedeva se i dinosauri potessero tirare ancora. Pare di sì, perché nel primo giorno di programmazione Boris Jurassic World ha fatto 1 milione di euro, quindi devo dire che è partito piuttosto forte nei nostri cinema, e mi vedo già famiglie di papà e mamme che l'avevano visto quando avevano magari 20 anni, portare magari un bambino in sala. Ecco, ti chiedo, va bene anche per i più piccoli? Guarda, allora io devo dire, il bambino protagonista, Tim Simpkins, 2 o 3 volte piange per lo spavento. Se i bambini sono abbastanza scafati, portateceli, perché non ci sono scene splatter. Certo è che qualche inserviente finisce nella bocca di un dinosauro, certo è che i momenti più riusciti di suspense vengono risolti da momenti spaventosi, quindi se non avete bambini impressionabili, portateceli, non vedrete scorrere sangue o arti mozzati, però un piccolo spavento se lo prenderanno. Esatto, quindi importante che lo sappiano i nostri ascoltatori, perché insomma chiaramente è un film nel quale si va consapevoli. Allora, questo è Jurassic World, sicuramente il film che troveremo probabilmente in testa nel prossimo weekend, il prossimo lunedì quantomeno, alla classifica degli incassi in Italia. A questo punto noi andiamo a giocare con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Siamo un'agenzia di intelligence internazionale indipendente che opera a un altissimo livello di riservatezza. E allora, la rosa purpurea @radio24.it è sempre il nostro indirizzo di posta elettronica. Scriveteci di che film si tratta, scriveteci il vostro indirizzo, e vi aspettano, per i due nostri ascoltatori che riusciranno a indovinare per primi, due copie in Blu-ray di questo film che sveleremo la prossima settimana. Andiamo avanti con possiamo chiamarlo un western danese, sì, tutto sommato, The Salvation, diretto da Christian Lehring, che racconta la storia, una storia ambientata nel 1871, colonizzatori fuori legge, siamo proprio nell'America della conquista del West. Ascoltiamo la clip. Dicono che eri un soldato. Hai mai combattuto in guerra? Sì. Chi era il nemico? I tedeschi. Dov'è mio fratello? Signor Della Rue, glielo garantisco. Non è stato qualcuno di queste parti. Hai tempo fino a mezzogiorno per trovare l'uomo che ha fatto questo. Altrimenti mi porti 2 della tua gente. Sapete, abbiamo sperato, pregato, perché arrivasse qualcuno come voi a salvarci da questa sciagura. Ti ho sottovalutato, soldato. Lo scopriremo subito di che pasta sei fatto. Un immigrato danese, dicevamo, nell'America del 1870, interpretato da Mads Mikkelsen, porta da quella parte dell'oceano moglie e figlio, ma un crimine orribile distrugge questa famiglia e dà vita a una serie di fatti, diciamo così, cruenti, che poi colonizzano il film da lì alla fine. Boris, interessante il tentativo appunto di un film targato Danimarca di andare a raccontare la storia in un ambiente western. È solo un ambiente, è solo uno sfondo di una storia, se vogliamo, familiare, intima, o c'è proprio anche qualche richiamo al genere vero e proprio? No, di richiami al genere ce ne stanno tantissimi. È curiosissimo perché portano proprio la Danimarca nel panorama western, cioè l'etica e l'estetica del cinema danese, quella capacità di rendere ghiaccio bollente quello che hai attorno, no? Passioni represse, però anche una quotidianità molto rarefatta. Noi siamo abituati al western un po' fracassone, pieno di aforismi, di scene madri, e qui invece ci ritroviamo un western che, pur avendo tantissime svolte di sceneggiatura e molti momenti drammatici, li fa agire quasi per sottrazione. È difficile, è davvero, a proposito di oggetti cinematografici, è davvero difficile codificare un film come questo, ma è anche molto molto interessante. Uno, perché Mads Mikkelsen, secondo me, con la vecchiaia comincia ad avere un viso talmente particolare, talmente potente, talmente forte, già lo aveva, ma adesso ancora di più, che ti porta in film che normalmente non ti terresti credibili senza di lui. Cioè lui è credibile come padre che vuole ricongiungersi col figlio e come marito che vuole ricongiungersi come figlio, e poi è credibile come cowboy ed è poi credibile come vendicatore. È credibile persino quando decide di prendersela con il resto del mondo e in qualche modo di diventare un salvatore suo malgrado, perché poi quello che gli interessa è semplicemente quello che ormai gli si è spento dentro. E quindi diventa un film western nella maniera più classica, anche nella maniera più fracassona, e allo stesso tempo profondamente intimista. Poi devo dire, il fatto che ci sia Cantona rende anche l'idea di come abbiano voluto raccontare tutto ciò che è attorno a Mikkelsen. Però sono veramente due film che girano in maniera concentrica attorno alla figura di Mikkelsen, che sa essere sia divo tra virgolette di un film classico di genere, sia però protagonista di un film intimista, e vederlo in un film solo di questo tipo affascina molto. E devo dire, secondo me è molto interessante come esperimento questo della Danimarca nel panorama western, ed è molto riuscito senza tradire né se stessa né però il genere western. E allora The Salvation nei cinema. A questo punto noi sentiamo ancora come vanno le cose sulle strade, fra poco torniamo, un omaggio al grande Christopher Lee che ci ha lasciato all'età di 93 anni. Non me lo posso permettere, quindi ti dico di no. Incidere il proprio primo disco, restaurare un monumento dimenticato, girare il film che si ha da anni nel cassetto, partecipare ad un progetto di ricerca scientifica, aprire un asilo nido, realizzare una app. Quanto costa finanziare un sogno? Tanto, ma se l'idea piace si può trovare l'aiuto di tanti. Sono Federico Taddia e vi aspetto ogni domenica alle 10.45 all'interno del programma Si può fare con Non me lo posso permettere, la vetrina del crowdfunding, per raccontarvi progetti più belli, creativi e innovativi. E non ci devo riflettere. Perché insieme si può fare. La rosa purpurea. Quanto tempo credi che abbiamo? Sauron ha riacquistato molto del suo antico potere. Non può ancora assumere forma fisica, ma il suo spirito non ha perduto nulla della sua potenza. Rinchiuso nella sua fortezza, il Signore di Mordor vede tutto. Il suo sguardo trafigge nuvole, ombre, terra e carne. L'omaggio a Christopher Lee, scomparso un paio di giorni fa all'età di 93 anni, l'omaggio attraverso la clip forse del ruolo che in questo momento è il ruolo più amato anche dai giovani, dai giovanissimi, quello di Saruman nel Signore degli Anelli. Pensate, questa è la scena, questa che abbiamo fatto sentire, la scena più vista su YouTube tra le tante scene di un uomo che ha fatto qualcosa come 206 film, quindi come dire, una filmografia assolutamente sterminata. Christopher Lee è stato tanto per il cinema, al di là del numero di film girati, ma anche i suoi ruoli, appunto dal Signore degli Anelli, ma anche i Dracula, i tanti Dracula, più di 10 interpretati negli anni, è stato in Star Wars, ha fatto tanto cinema che lambiva il B-movie, pur essendo assolutamente un attore di serie A. Boris? Assolutamente sì, tu dicevi più di 200 film, probabilmente se mettessimo anche quelli in cui è stato citato e quello in cui è stato imitato probabilmente supereremmo i 1000, perché Christopher Lee era un attore così straordinario che ha condizionato la sua generazione e quelle a venire, soprattutto per quanto riguarda l'interpretare dei cattivi, anche se poi pochi lo ricordano. Io ricordo un film che si chiama Jinnah, che era sul fondatore dello Stato del Pakistan, in cui lui era straordinario protagonista, completamente diverso da quello a cui eravamo abituati a vedere. Lui si è preso sulle spalle il ruolo di icona, se lo vedete nelle ultime foto sembrava quasi Fidel Castro, avrebbe potuto interpretare Fidel Castro, se non ci fosse stata la malattia forse lo avrebbe anche fatto. Aveva questa faccia ieratica, questi lineamenti incredibili, pazzeschi, e in qualche modo ha pagato il dazio alla natura che gli aveva regalato uno strumento così straordinario di recitazione come il suo viso, e quindi il Conte Dooku, Saruman, Dracula, indossato come una seconda pelle, non potevano che essere il naturale arrivo di questa carriera. Era però un uomo straordinariamente sensibile nel raccontare anche piccoli personaggi. Era uno che non pretendeva il ruolo del protagonista o dell'antagonista, ma pretendeva che il film fosse bello, che il film piacesse al pubblico. Era, e forse questa era la sua dote più grande, un attore che recitava per il suo pubblico. Non a caso anche poi in vecchiaia, quando ha iniziato a recitare di meno, andava a tantissimi festival per poter incontrare le persone che ne avevano consacrato la grandezza. È veramente uno di quegli attori come non ce ne sono più, con una consapevolezza anche dell'importanza del pubblico come non ce ne sono più. Assolutamente, con la capacità di fare esperienza e di fare spessore sulla pratica del cinema, sulla pratica di un cinema estremamente popolare, che lui è stato uno dei più capaci a nobilitare proprio con le sue interpretazioni. Tra l'altro era anche un grande musicista, perché aveva scritto 4 album di musica metal, e quindi era anche un vero e proprio rocker. Insomma, ci mancherà sicuramente, ma abbiamo i suoi film per ricordarlo, Christopher Lee. Ciao Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora adesso è arrivato il momento di parlare di cinema da vedere o rivedere in casa, come sempre cominciando a risolvere il game della scorsa settimana. Perché non ti metti le ali e il costume da uccello? Sei un cialtrone! Un cialtrone! E allora, si trattava di Birdman, l'hanno indovinato in molti dei nostri ascoltatori, uno dei film più belli della stagione che si sta andando a chiudere, che l'aveva di fatto inaugurata questa stagione con il passaggio alla Mostra del Cinema di Venezia. Birdman lo indovinano per primi e lo vincono Gianmaria Busatta di Lugagnano di Sona, provincia di Verona, e Andrea Santamaria di Genova riceveranno il Blu-ray di questo film, del quale ci facciamo raccontare tutto nella versione on video da Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, arriva in DVD e Blu-ray il premio Oscar miglior film 2014, un film di Alejandro González Iñárritu, un film che racconta di un attore rinchiuso nel proprio ruolo da supereroe, come succede tra l'altro a Paul Dano nell'ultimo film di Sorrentino, e che vuole conquistare Broadway mettendo in scena un racconto di Raymond Carver. Ne esce un film nevrosi, una sorta di jam session a fior di pelle, sempre sull'orlo di una crisi di nervi, quasi tutto girato in un falsissimo piano sequenza con un gigantesco Michael Keaton, ed è un film assolutamente da recuperare in questa edizione Blu-ray DVD a cui non manca assolutamente nulla, ed è un film da recuperare perché è un film capace di parlare del presente, di un bisogno d'amore che oggi passa più per la reputazione, per il riconoscimento del proprio pubblico anche tramite social network, come se essere amati significasse solo avere un superficiale consenso da parte degli altri. I contenuti extra sono veramente pregevoli, svelano una lavorazione tortuosa e al contempo esaltante. Assolutamente uno di quei film da avere non tanto per vederlo ma per rivederlo, e per rivederlo ancora una straordinaria prova di attori in questo Birdman, che ha anche un po' contrassegnato la notte degli Oscar del febbraio scorso. E allora andiamo invece alle segnalazioni, Giulio, per quanto riguarda i palinsesti televisivi. Mercoledì 17 su Rai Movie un altro film che soprattutto magari i giovanissimi hanno visto poco, ma che per la nostra generazione, per la mia almeno, ha significato qualcosa, è L'uomo che cadde sulla terra. Sì, mercoledì 17 alle 23.05 su Removie, lui ha sembianze umane, ma in realtà è un extraterrestre precipitato sul nostro pianeta alla ricerca di acqua. Le sue doti lo portano ben presto a diventare un magnate industriale e a finire anche nell'edonismo più sfrenato. È un film affascinante e psichedelico, la quarta regia di Nicholas Roeg, autore assolutamente da rivalutare, un creatore di forme cinematografiche veramente eccentriche e molto eccitanti, ed è un film che si iscrive perfettamente in quel filone umanista ed esistenziale, politico e pessimista della fantascienza anni 70, con protagonista tra l'altro un grande smarrito David Bowie, e uno stile che ha l'andamento del delirio tutto dentro gli occhi del suo protagonista, ebro di suoni e di colori. E allora ricordiamo l'appuntamento mercoledì 17 Rai Mui 23.05 con L'uomo che cadde sulla terra. Invece il giorno dopo, giovedì 18, sulla F alle 21 in prima serata, il Michel Gondry che non t'aspetti con Be Kind Rewind. Sì, siamo nell'epoca di YouTube e due eterni adolescenti un po' tonti smagnetizzano i nastri di un'intera videoteca, siamo ancora alle VHS però lì, e ricorrono alla propria inventiva per rimediare rigirandoli a modo loro. Rifanno così la storia del cinema rigirando dei capolavori con goffaggine e tanto amore senza alcun effetto speciale che non sia la loro follia, per non far scomparire il cinema in questa città fuori dal tempo. È un'opera veramente regressiva, infantile, gioiosa, e artigianale, molto ingegnosa come i film, diciamo, taroccati che mette in scena, ed è un inno al cinema come fantasia, che è probabilmente una bugia che non salverà nessuno, ma che è comunque il luogo dell'utopia, del possibile, della meraviglia, di uno sguardo sempre nuovo e rinnovabile. Insomma, io è un film che amo molto e insomma spero che anche i radioascoltatori lo possano recuperare. Condivido assolutamente l'amore, Giulio, per questo film che ci riporta anche, come dire, un'atmosfera analogica che a volte ci manca un pochino. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E le note della nostra sigla ci dicono che siamo arrivati ai saluti. Allora, appuntamento fra 7 giorni, come tutti i sabati di tutta l'estate, alle 18, La Rosa Purpurea c'è per raccontarvi tutto il cinema che c'è.